Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Purtroppo non ci fu mezzo per indurre lo zio a non fare domande relative al processo nell'atrio dove si aggiravano impiegati e commessi e dove proprio in quel momento passava il vice direttore. Allora, Josef, cominciò lo zio, rispondendo agli inchini dei presenti con rapidi saluti. Dimmi adesso apertamente di che processo si tratta. K disse qualche frase insignificante, rise persino, e solo sulla rampa spiegò allo zio di non aver voluto parlare apertamente davanti alla gente. Giusto, disse lo zio. Ma adesso parla. Il capo piegato, fumando un sigaro con boccate brevi e rapide, si apprestò ad ascoltare. Prima di tutto, zio, disse K, non si tratta di un processo davanti al tribunale ordinario. Male, disse lo zio. Come? Disse K fissando lo zio. Credo che sia male, ripeté lo zio. Erano fermi sulla rampa che scendeva in strada. K, avuta l'impressione che il portiere stesse ascoltando, tirò in basso lo zio. Li accolse il vivace traffico della strada. Lo zio, che aveva preso K a braccetto, non chiedeva più con tanta insistenza del processo, anzi, procedettero per un pezzo in silenzio. «Ma com'è successo?» chiese infine lo zio, fermandosi in modo tanto brusco che la gente dietro di lui si scansò spaventata. «Queste cose non vengono all'improvviso, si preparano da lontano. Ci saranno stati dei segni. Perché non mi hai scritto?» Sai pure che per te faccio qualunque cosa, in un certo senso sono ancora il tuo tutore, e fino ad oggi ne sono stato orgoglioso. Naturalmente continuerò ad aiutarti anche ora, solo che se il processo è già avviato sarà molto difficile. La cosa migliore sarebbe che tu prendessi una breve licenza e venissi in campagna da noi. Ma accorgo adesso che sei anche un po' smagrito. In campagna ti riprenderai, ti farà bene. Ti aspetta di sicuro un periodo faticoso. E poi, in certo modo, sarai con ciò sottratto al tribunale. Qui dispongono di tutti i poteri possibili, che di necessità impiegano automaticamente anche nei tuoi confronti. In campagna dovrebbero delegare delle persone, oppure agire su di te con lettere, telefono o telegrafo. Questo, naturalmente, limita l'effetto. Non ti libererà, ma ti farà respirare. Potrebbero proibirmi di partire, disse K, un po' attirato dal ragionamento che era nel discorso dello zio. No, non credo che lo faranno, disse lo zio pensieroso. Il loro potere non diminuisce poi tanto con la tua partenza. Pensavo, disse K, prendendo a braccetto lo zio per impedirgli di rimanere fermo, che tu avresti attribuito a tutto questo ancora meno importanza di me. Invece lo prendi così sul serio. Josef! Esclamò lo zio cercando di svincolarsi per potersi fermare di nuovo, ma K non lo lasciò. Tu sei cambiato. Hai sempre avuto una così bella intelligenza. E proprio adesso ti vieni a mancare. Vuoi perdere il processo? Lo sai che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che sarai cancellato e che tutti i tuoi parenti saranno coinvolti o almeno umiliati fino a terra. Josef, torna in te! La tua indifferenza mi fa perdere la testa. A guardarti, ci sarebbe quasi da credere al proverbio «avere un simile processo significa averlo già perduto». «Caro zio», disse K., agitarsi è inutile. Lo è da parte tua e lo sarebbe anche da parte mia. Non è agitandosi che si vincono i processi. Solo il soggiorno in campagna non lo considero vantaggioso, neppure secondo il tuo punto di vista, perché significherebbe fuga e ammissione di colpa. Inoltre, se qui sono più perseguitato, posso anche occuparmi di più della causa. Giusto, disse lo zio, come se adesso finalmente si avvicinassero. Thank you. In questo saremmo allora d'accordo, disse K. E adesso mi puoi suggerire quello che devo cominciare col fare? Naturalmente ci devo ancora pensare, disse lo zio. Considera che vivo in campagna senza interruzione da quasi 20 anni. Ormai mi oriento male in queste cose. Vari importanti legami che avevo con personalità che forse al riguardo sanno di più si sono allentati da sé. In campagna sono un po' isolato, lo sai bene. Ce ne accorgiamo, è vero, solo in casi come questo. Ma la tua questione poi mi colse in parte di sorpresa, anche se, fatto strano, dopo la lettera di Erna immaginavo qualcosa di simile. E oggi mi è bastato vederti per esserne quasi sicuro. Ma ciò importa poco. Quello che adesso conta di più è non perdere tempo. Mentre parlava, si era alzato sulla punta dei piedi. E fatto cenno a un'automobile, trasse K con sé nella vettura, dando nello stesso tempo un indirizzo al conducente. Andiamo dall'avvocato Hood, disse. Era mio compagno di scuola. Anche tu lo conosci certo di nome. No? Proprio strano. Come difensore e avvocato dei poveri ha una fama considerevole. Ma io ho grande fiducia soprattutto nell'uomo. Per me tutto quello che fai va bene, disse K. Sebbene il modo brusco e spiccio con cui lo zio trattava la faccenda lo mettesse a disagio. Non era molto piacevole andare da un avvocato dei poveri in veste di imputato. Non sapevo che in una causa come questa, disse, si potesse prendere anche un avvocato. Naturalmente, disse lo zio. È ovvio, perché no? Ed ora raccontami, perché si è informato bene sulla questione, tutto quello che è successo fino ad oggi. K cominciò subito a raccontare senza tacere nulla. La sincerità assoluta era l'unica protesta che poteva permettersi contro l'opinione dello zio che quel processo fosse una gran vergogna. La vettura si fermò davanti a una casa scura. Lo zio suonò subito alla prima porta del piano terreno. Mentre aspettavano, digrignò in un sorriso i suoi grandi denti e mormorò. Le 8, un'ora insolita per visite di clienti. Ah, ma Hulda non me ne vorrà. Due occhi grandi, scuri, apparvero nello spioncino della porta. Indugiarono sui due e scomparvero, ma la porta rimase chiusa. K e lo zio si confermarono l'un l'altro di aver visto i due occhi. Una nuova cameriera che ha paura degli estranei? Disse lo zio bussando un'altra volta. Gli occhi si mostrarono di nuovo. Ora si sarebbero detti quasi tristi, ma forse era anche solo un'illusione, causata dalla fiamma del gas che ardeva libera, con un forte sibilo sopra le loro teste, ma dava poca luce. «Apra!» gridò lo zio, picchiando il pugno contro la porta. «Siamo amici del signor avvocato!» «Il signor avvocato è malato», mormorò una voce alle loro spalle. Su una porta, all'altro capo del piccolo andito, era un uomo in vestaglia che dava quella notizia con voce debolissima. Lo zio, già furibondo per la lunga attesa, si voltò di scatto per gridare «Malato? Lei dice che è malato?» E con aria minacciosa, quasi quell'uomo fosse la malattia stessa, si diresse verso di lui. «Hanno già aperto», disse l'uomo indicando la porta dell'avvocato. Si strinse addosso la vestaglia e sparì. La porta era stata davvero aperta. Una ragazza, Kappa riconobbe gli occhi scuri, un po' sporgenti, stava nell'anticamera in un lungo grembiule bianco e teneva una candela in mano. «Un'altra volta apra prima!» disse lo zio invece di salutare, mentre la ragazza faceva una lieve riverenza. «Vieni, Josef!» disse poi a Kappa, che passò adagio davanti alla ragazza. «Il signor avvocato è malato?» disse la ragazza, visto che lo zio, senza fermarsi, si affrettava verso una porta. K guardò ancora, stupito, la ragazza, che nel frattempo si era già voltata per richiudere la porta d'ingresso. Aveva un viso tondo da bambola. Tondi erano non solo le guance pallide e il mento, ma anche le tempie e la fronte. Josef! Esclamò di nuovo lo zio, e alla ragazza chiese: è il mal di cuore? Credo di sì, disse la ragazza, che aveva trovato il tempo di precederli con la candela e di aprire la porta della camera. In un angolo della camera, dove la luce della candela ancora non arrivava, si sollevò dal letto un viso con una lunga barba. Lenny, chi c'è? Chiese l'avvocato, che, abbagliato dalla candela, non riconosceva gli ospiti. «È Albert, il tuo vecchio amico!» disse lo zio. «Ah, Albert!» disse l'avvocato, lasciandosi ricadere sui cuscini, come se per quella visita non occorresse nessuna finzione. «Va tanto male?» chiese lo zio, sedendo sulla sponda del letto. «Non credo, è un attacco del tuo mal di cuore che passerà come i precedenti!» «Può darsi!» disse piano l'avvocato. Ma è il peggiore di quanti ne abbia avuti. Faccio fatica a respirare. Non dormo niente, ogni giorno mi sento più debole. Ah, disse lo zio, e con la sua grande mano calcò il panama sul ginocchio. Cattive notizie. Sei almeno curato bene? Qui poi è così malinconico, così scuro. È passato del tempo da quando fui qui l'ultima volta. Mi sembrava più accogliente. Neppure la tua piccola signorina qui pare molto allegra, a meno che non finga. La ragazza stava ancora con la candela vicino alla porta. Da quanto il suo sguardo vago faceva capire, guardava più Kappa che lo zio, anche nel momento in cui lo zio parlava di lei. Kappa si appoggiò ad una seggiola che aveva spinto vicino alla ragazza. «Uno malato come me, disse l'avvocato, ha bisogno di pace. Per me non è triste». Dopo una breve pausa soggiunse: e Lenny mi cura bene, è brava. Ma lo zio non fu convinto. Era palesemente prevenuto contro quell'infermiera, eppure se non rispose niente al malato continuò a lanciare occhiate severe all'infermiera, mentre quella si accostava al letto, posava la candela sul comodino, si chinava sul malato e nell'ordinargli i cuscini gli parlava in un sussurro. Quasi dimentico del riguardo dovuto al malato, si alzò. Cominciò a camminare avanti e indietro alle spalle dell'infermiera, e Kappa non si sarebbe stupito se l'avesse afferrata per la sottana e strappata via dal letto. Kappa guardava ogni cosa tranquillo. La malattia dell'avvocato neppure gli dispiaceva troppo. Non aveva potuto opporsi allo zelo spiegato dallo zio per la sua causa, e adesso accettava volentieri la diversione che quello zelo ora subiva senza suo intervento. A questo punto lo zio, forse solo con l'intenzione di offendere l'infermiera, disse: «Per favore, signorina, ci lasci un momento soli. Devo trattare col mio amico una questione personale». L'infermiera, che era ancora tutta chinata sopra il malato e stava lisciando il lenzuolo dalla parte del muro, girò solo la testa e disse molto tranquilla, creando un forte contrasto con le parole dello zio emesse a stento per la rabbia e poi subito precipitose: «Il signore lo vede, è malato. Non può trattare nessuna questione». Aveva ripetuto le parole dello zio probabilmente solo per comodità, ma persino una persona imparziale poteva considerarle ironiche, e lo zio naturalmente saltò su come se l'avessero punto. «Maledetta!» disse in maniera quasi incomprensibile, nel primo gorgoglio della collera. Kappa si spaventò, sebbene si fosse aspettato qualcosa del genere, e corse verso lo zio, con la ferma intenzione di chiudergli la bocca con entrambe le mani. Ma per fortuna, dietro alla ragazza, si sollevò il malato. Lo zio fece una faccia scura come se ingoiasse una cosa disgustosa, poi disse più calmo: «Non abbiamo ancora perso la ragione. Se quanto chiedo non fosse possibile, non lo chiederei. La prego, ora se ne vada. «Davanti a lei ne puoi dire tutto», disse il malato, nel tono inequivoco di un invito. «La cosa non riguarda me», disse lo zio. «Non è un mio segreto». E si voltò come se non volesse più discutere, pure concedendo qualche istante per riflettere. «Chi riguarda allora?» chiese l'avvocato con voce morente e si riadagiò. «Mio nipote», disse lo zio. «Ho portato anche lui con me». E lo presentò. «Il procuratore Joseph K.» «Ah!» disse il malato molto più vivace e tese la mano verso K. «Mi scusi, non l'avevo vista. Va, Leni!» disse poi all'infermiera, che del resto non si opponeva più in nessun modo, e le tese la mano come se si trattasse di un lungo distacco. «Allora?» disse infine allo zio, che a sua volta conciliato si era fatto più vicino. «Non sei venuto a fare una visita al malato, ma vieni per affari». Era come se l'idea di una visita al malato avesse fino a quel momento paralizzato l'avvocato. Tanto ora sembrava rinvigorito, appoggiato in modo stabile su un gomito, cosa abbastanza faticosa, mentre continuava a tirarsi una ciocca nel folto della barba. «Sembra che tu abbia un aspetto molto migliore», disse lo zio, «da quando quella strega è uscita». Si interruppe, mormorò. «Scommetto che ci sta a sentire». E balzò verso la porta, ma dietro la porta non c'era nessuno. Lo zio tornò indietro, non deluso, perché il fatto che quella non stesse a sentire gli sembrava una malvagità ancora peggiore, ma irritato. «La giudichi male», disse l'avvocato, senza difendere oltre l'infermiera. Con ciò voleva forse significare che quella non aveva bisogno di difesa, ma in tono molto più interessato continuò. «Per quanto riguarda la questione di tuo nipote, mi riterrei felice se le mie forze fossero sufficienti per questo compito estremamente difficile. Ma temo proprio che non basteranno, ma non voglio lasciare nulla di intentato. Se da solo non bastassi, si potrebbe sempre tirare dentro qualche altro. Per essere sinceri, la causa mi interessa troppo per decidermi a rinunciare a parteciparvi in qualche modo. Se il cuore non mi regge, Avrà qui almeno una buona occasione per darsi vinto una volta per sempre. K credette di non capire una parola di tutto questo discorso. Guardò lo zio per trovare da quella parte una spiegazione. Ma lo zio, con la candela in mano, stava seduto sul comodino, dal quale una boccetta di medicina era arrotolata sul tappeto. Annuiva a tutto quello che l'avvocato diceva, era d'accordo su tutto, e di tanto in tanto levava lo sguardo su K, invitandolo ad eguale comprensione. Forse lo zio aveva già in precedenza raccontato all'avvocato del processo? Ma questo era impossibile. Tutto quello che era successo prima parlava in senso opposto. Non capisco, disse quindi. Ecco, forse non l'ho capita bene? Chiese l'avvocato, stupito e imbarazzato quanto K. Forse sono stato precipitoso. Di cosa voleva parlare con me? Pensavo si trattasse del suo processo. Naturale, disse lo zio, che poi chiese a K. Che cosa vuoi? Ecco, come fa a sapere di me e del mio processo? Chiese K. Beh, disse l'avvocato sorridendo. Sono pure avvocato, frequento gli ambienti giudiziari. Si parla di questo e quel processo, e i più vistosi, specie quando riguardano il nipote di un amico, rimangono in mente. Lei frequenta quegli ambienti giudiziari? Chiese K. Sì, disse l'avvocato. Fai domande da bambino, disse lo zio. Chi dovrei frequentare se non gente della mia professione? Soggiunse l'avvocato. Queste parole suonarono così incontestabili che K non rispose nulla. Avrebbe voluto dire: ma lei lavora nel tribunale del Palazzo di Giustizia, non in quello del solaio. Ma non poté costringersi a dirlo davvero. Deve anche pensare, continuò l'avvocato col tono di chi spiega una cosa tanto ovvia che è inutile spiegarla, deve anche pensare che frequentando quegli ambienti ottengo grandi vantaggi per i miei clienti e da molteplici punti di vista. Non è neppure sempre bene parlarne, ecco. La malattia naturalmente ora mi intralcia un poco, tuttavia vengono a trovarmi buoni amici del tribunale e qualcosa finisco col sapere. Forse finisco col sapere più di certi che, pieni di salute, trascorrono tutta la giornata in tribunale. Proprio ora, per esempio, ho qui una visita gradita. E indicò un angolo buio della stanza. Dove? Chiese K, quasi scortese, nel primo moto di sorpresa. E davvero là, in quell'angolo, cominciò a muoversi qualcosa. Al lume della candela che lo zio ora teneva sollevata, si vide là un uomo attempato, seduto accanto a un minuscolo tavolino. Thank you.